Buonasera a tutti e tutte, bentornati e bentornate su Radio ZM. Questa è Pillole di Ecologia, è la nostra solita sigla, ve l'ha annunciato entusiasticamente. Qua con me c'è il buon Dave. Bella raga. Direttamente da Copenaghen. Yeah, yeah. Come stai, Dave? Bene, grazie. Bene, dai. Sta arrivando la primavera qua. Sono i fiorellini nei parchi che iniziano a sbocciare. Sì, anche qua inizia a fare un bel teporino. Il bucaneve. Allora, Dave, la volta scorsa abbiamo parlato di glaciazioni. E sì. Noi l'avevamo registrata proprio quando c'era la neve, c'era venuto, come dire, il trick di dire facciamo le glaciazioni vedendo il tempo fuori. E esatto. Oggi invece affrontiamo un'altra tematica, che tra l'altro è una tematica piuttosto viva anche a Milano Sud, negli anfratti di Milano Sud, che è quella della riforestazione. Esatto, la riforestazione. La esploreremo un po' in tutte le sue sfaccettature. Esatto, diremo, diciamo, all'inizio possiamo parlare di come, di perché e come riforestare, che cosa sia la riforestazione, come si faccia. Poi possiamo parlare della situazione in Italia poi possiamo considerare alcuni progetti in particolare che coinvolgono più direttamente la città di Milano, come per esempio Restami, e magari se c'è tempo possiamo anche parlare un po' della situazione nel Parco del Ticinello, che è un luogo al limite tra urbano e naturale, sì, cioè rurale, e quindi avendo questa dualità, esatto, cioè nel senso ci sono un po' di contrasti, soprattutto perché molte persone non sono affatto d'accordo con lo schema di gestione che è stato sviluppato per questo. Esatto, si è già creata una mobilitazione di realtà e persone che abitano nel quartiere, appunto, per in seguito a queste progettazioni. Esatto. Però noi partiamo, diciamo, dal principio. Correva esatto. L'anno? No, non è vero. Allora, il nostro principio è questo. Come funziona in natura? Cioè, senza alcun intervento dell'uomo, quando si crea una nuova foresta, oppure, non so, mi viene in mente, dopo un incendio, che a causa di un fulmine prende un pezzo di una foresta, cosa succede in quel punto lì dove non ci sono più alberi? Esatto, in natura gli alberi spariscono, cioè le foreste vengono distrutte da 3.000 milioni di fattori diversi. È una cosa naturalissima che succede spessissimo, soprattutto gli incendi, le frane, l'avanzata dei ghiacciai e il loro ritiro, oppure tempeste, uragani, alluvioni, insomma. Ok, svariate motivazioni. Cioè, ci sono un miliardo di motivazioni per cui può succedere, quindi ovviamente la natura ha un modo ben oliato e ben provato di sì. ricostruire i suoi boschi. E questo processo si chiama, un nome, si chiama successione. Okay. E in natura è una cosa che succede nel momento stesso in cui viene liberato dello spazio. Perché cosa succede? Tu hai una foresta, e la foresta è un insieme di alberi che sono in estrema competizione l'uno con l'altro per avere un po' di luce. Okay. Tutti sono una terra che arriva più in alto e ha più luce. E quindi non appena una parte di quella foresta viene distrutta, tu hai una bella finestrona su cui arriva un sacco di luce e che quindi è una zona che di fatto è piena della risorsa più preziosa. Ok. E quindi quello che succede è che subito la foresta ricresce e le specie fanno a gara chi cresce per prima. Ok. E questo è quello che succede nel fenomeno della successione. E il modo in cui questo si sviluppa è che ci sono delle specie che sono specialmente adattate a questo okay. processo, che sono chiamate specie pioniere, che sono le prime che arrivano perché hanno i semi che si diffondono più facilmente, i semi più leggeri, i semi più che vengono cagati più spesso dagli uccelli e così via. Quindi sono le prime che arrivano e quelle che hanno bisogno di meno protezione dall'ambiente, perché se okay. sono più che crescono nelle foreste e quindi sono adattate a svilupparsi e crescere in un ambiente più protetto dalle tempeste. Anche più ombroso, immagino, più... Esatto, l'ombra è una cosa importantissima. E quindi quelle che vanno dove non c'è la foresta sono le specie più ruderali, di fatto, che arrivano subito, crescono in fretta e usano tutta la luce che gli arriva. Okay. E queste specie sono, per esempio, la betulla nelle zone montuose, e nelle zone più in pianura sono i pini, che sono quelli più abituati a crescere dopo gli incendi, mentre invece nelle zone che vengono disboscate, quindi quando non è un incendio ad essere coinvolto, ad aprire lo spazio, arrivano quelle che vengono chiamate latifoglie nobili per qualche ragione, forse perché okay. il legno è di qualità, che sono l'acero e il frassino di base. Quindi aceri e frassini crescono molto velocemente, stanno bene all'aperto, quindi con tutta la luce che il sole gli può dare, e hanno i semi abbastanza mobili, infatti sono quei semi che hanno le ali. Sì, ok. Hanno l'elicotterino quando cadono. Quelli sono, è un adattamento fatto apposta perché così il vento li possa spazzare via e poi magari gli va di culo e cadono in un posto dove la foresta è stata distrutta. Ok. E quindi questi alberi crescono e poi ovviamente la stessa specie che è pioniera non è brava a vivere in una foresta creata. Quindi questi alberi crescono e crescendo, maturando, rendono l'ambiente più favorevole per specie che invece sono più adattate alla foresta. Ok. Come dei carpini o alcune querce, i faggi in montagna, e magari gli abeti. E quindi questi cresceranno nel sottobosco e una volta che i primi alberi arrivati muoiono di vecchiaia o malattia, loro spuntano e crescono. Spuntano e, okay. E prendono il sopravvento. E questo succede perché appunto. Diciamo i protagonisti di questo fenomeno arrivano sul posto o tramite la dispersione dei semi o possono anche essere alberi sopravvissuti all'evento disastroso, però è anche presente nel suolo una banca di semi, ovvero non tutti i semi che una pianta produce un certo anno germinano quello stesso anno. Una certa porzione di semi che cambia da specie a specie è dormiente e quindi rimane nel suolo e nel momento in cui le condizioni sono favorevoli gli arriva un segnale che riescono a captare in che modo storia. Che chissà come cazzo fanno a capire che si è aperto, magari sentono un po' più calduccio del sole che colpisce sentono del fuoco, si riattivano e così non devono neanche avere la fortuna di arrivare lì, sono già lì e quindi sono per forza i primi a... Ah certo, ok. Un esempio di pianta che fa le banche di semi è l'erica, ovvero il brugo, non l'erica, che però si può conoscere più come erica, che non è un albero ma un piccolo, un arbusto nano, la parola tecnica, che fa banche di semi, è una pianta specificatamente adattata a crescere come pioniera dopo gli incendi. E questa pianta fa una banca di semi, cioè la maggior parte dei semi di questa pianta sono dormienti e fa una banca di semi che sta nel suolo e può sopravvivere fino a 80 anni. Cioè un seme di questa pianta può vivere 80 anni dormiente nel suolo. E in 80 anni c'è una buona probabilità che ci sia un incendio e gli apra la strada così che possa crescere. Infatti questa pianta spunta fuori dal nulla quando c'è un incendio perché non è che sia una pianta che viene molto... dispersa dagli animali perché non fa frutti commestibili e quindi questi semi erano lì da chissà quando, c'è stato un incendio che ha aperto la foresta e questa è cresciuta. Che storia. E quindi questa è la riforestazione naturale. Ok, quindi mentre tu parlavi mi veniva da dire che ad esempio quando bisogna riforestare una zona pianeggiante aceri e frassini sono specie perfette, no? Esatto, sono specie perfette, anche le querce volendo sarebbero perfette, però tutte queste specie vengono spesso battute in velocità dalla robinia. La robinia è una eccezionale specie, una specie eccezionale pioniera. Ok. Infatti tutti i campi che vengono abbandonati, la prima specie che appare è la robinia, e magari anche un po' l'ailanto, che sono un'altra specie invasiva, però comunque... una cosa interessante è che la robinia non è così odiata in Italia, cioè è accettata perché quando poi vai a studiare il sottobosco, vedi che tutte le specie del sottobosco che ci sarebbero con gli aceri e i frassini ci sono anche con la robinia, quindi non è così un grosso problema, cioè non è che togli ok. L'ailanto invece è tutta un'altra storia perché... A differenza delle altre specie pioniere, l'ailanto è anche una specie forestale, quindi è diciamo polifunzionale. Ok, cioè arriva per prima, ma poi sopravvive anche quando la foresta già esiste. Esatto, quindi una volta che si stabilisce, c'ha la piazza, la tiene, e quello è un problema, perché nulla cresce sotto l'ailanto, E quindi hai queste chiazze di un deserto, di biodiversità, che però ha la forma di una foresta fatta tutta di una sola specie. Ok. Va bene, mentre invece, quindi in natura funziona così, con piante autoctone oppure piante che vengono da fuori, tipo robinia e ailanto, che quindi diciamo fanno cose un po' diverse a seconda del tipo di pianta che è. Io parlo da tipo che abbasso il livello della conversazione. No, sì, esatto, Più o vengono da meno. fuori, c'è chi lo sa fare meglio e chi lo sa fare peggio, ciascuno ha più o meno le sue skills e le cose si Ok. equilibrano, diciamo. Invece, diciamo, quali approcci esistono invece per riforestare artificialmente? Cioè, quindi, quando l'uomo decide che quella zona è da farci una foresta. Cioè, Esatto. immagino che nel tempo sarà cambiato il modo di fare questa cosa. Sì, la cosa è cambiata molto nel tempo perché, anzitutto consiglio un libro bellissimo, Ok. si chiama La storia del bosco e purtroppo ce l'ho in un'altra stanza e vabbè, Ok. una pausa saprò dire anche l'autore. Comunque è un libro che parla proprio, lo sto leggendo adesso e parla proprio di come è cambiata la gestione del bosco e il paesaggio rurale italiano, Figo. senso della storia. Ed è mega interessante, è scritto un po' didattico, un po' noioso, però è interessante per farsi i viaggioni su come era l'Italia un tempo. Ok. E, beh, diciamo che ci sono tre scuole, diciamo, di come fare la riforestazione. C'è la scuola moderna, quindi che si basa sulla scienza e sulla ricerca molto moderna, quella proprio degli ultimi anni e gli ultimi decenni. Poi Ok. Ok. c'è la vecchia scuola, tra virgolette, che è quella del Novecento e del dopoguerra, che anche quella era basata su una scienza, però una scienza che non sapeva molte cose, che non era così vicina all'ambiente come lo è adesso. E quindi era più volta alla produttività delle foreste. Ok. E poi c'è un terzo metodo che è quello proprio antico, di cui si sa poco, però si sa abbastanza grazie a una serie di documenti che si sono salvati e che possono essere studiati. Partendo dal metodo più antico, la riforestazione per assurdo non era tanto artificiale nei tempi antichi, perché era fatta per lo più per selezione, ovvero tu avevi una foresta e tagliavi tutti gli alberi meno che quelli che ti interessavano, e così avevi una foresta della specie che ti interessava. E non è che fosse una cosa così sostenibile. Tuttavia, non essendoci 60 milioni di italiani, essendocene Certo. magari 5, potevano tagliare tutti i boschi che volevano, comunque ce n'era abbastanza. Tuttavia, una cosa che avevano molto più di adesso era una gestione molto più attenta e capillare dei boschi, per cui questi riuscivano a persistere per secoli e comunque erano una parte essenziale, anzi più che essenziale, imprescindibile dell'ambiente rurale, perché era il luogo da cui prendevano tutte le risorse per la campagna. Ok, Quindi quindi quasi. una situazione tipo quella della pianura padana con campi su campi sterminati a perdita d'occhio non esisteva in passato, cioè non era Non così esisteva decantabile. proprio perché non avrebbero avuto la legna necessaria a costruire gli aratri per quei campi, oppure i paletti per sostenere le vigne, se c'erano vigne, oppure Ok. tutti gli strumenti del passato erano fatti di legno o di ferro. Certo. E quella parte in legno veniva da foreste non primigenie naturali da cui si estraevano risorse, ma da foreste capillarmente gestite. Ok. Poi c'è stata la rivoluzione industriale, quindi di fatto sono per lo più andati perduti quelle tecniche che venivano considerate un po' più vecchie, perché era nata la scienza e quindi tutti erano molto più infervorati a fare le nuove cose. E quindi è nata questa tecnica per massimizzare la produttività di una foresta. Okay. E questo è l'approccio che oggi viene chiamato più old school. Ovvero un approccio che tratta la foresta come fosse una monocultura, quindi invece che un campo di mais hai un campo di abeti. E quindi quando devi fare riforestazione, tu tappi il buco più velocemente che puoi, usando la specie che cresce più in fretta e che si vende al prezzo maggiore, quindi l'abete rosso. E questo approccio, da un lato, ha il massimo ritorno dell'investimento, perché tu pianti una specie che cresce in fretta e puoi tagliare presto e rivendere e ci fai un sacco di soldi. Ci metti 60 anni, però se una cosa viene fatta da uno Stato, come era il caso per la maggior parte delle foreste, sono demanio okay. statali, non private, insomma ci sta che lo pianti e magari 60 anni dopo, magari qualcuno l'aveva piantato 60 anni prima e ci fai i soldi tu, insomma così. Però questo è un approccio che persiste ancora oggi, e oggi, soprattutto in virtù del cambiamento climatico, ma di un'altra serie di problematiche che ci sono oggi, okay. oggi questo approccio rivela tutte le sue debolezze, perché non puoi trattare una foresta come fosse un campo di mais, perché mentre il campo di mais è molto più facile da gestire, una foresta è enorme e ci sono un numero enormemente maggiore di attori in questa partita, di giocatori nella partita. E quindi quello che succede oggi è che tutte queste foreste, enormi monoculture, io ce l'ho particolarmente contro l'abete rosso, però ci sono anche di altre cose, per esempio i pioppi in pianura padana. Queste foreste hanno problemi, perché quando hai una sola specie, se ti arriva un parassita che colpisce quella specie, si ritrova un buffet illimitato e la popolazione del parassita esplode e ti distrugge tutta la foresta. Quindi è un po' come fare all-in a poker. Nel senso, okay. se ti va più bella, ti va di culo per 60 anni, gli alberi crescono, bella lì. Se ti va male, arriva il parassita che ti spancula tutta la foresta, tutta quanta. Arriva la tempesta, ti rovescia tutti gli alberi, oppure se c'è una siccità ti muore tutta la foresta. Ed è una cosa, questa della siccità, che succede adesso in Germania. Hanno un sacco di foreste di abete rosso piantate nel dopoguerra, che adesso sarebbero quasi pronte per essere raccolte, o piantate magari negli anni 60 o 70, e invece gli sono morte tutte quest'anno. Okay, hanno per centinaia di ettari di foreste morte a causa di una siccità. E quindi è un problema grosso. E questo peraltro veniva fatto per lo più in combination con i tagli a raso, ovvero che nel momento in cui devi tagliare il legno per farci soldi, o comunque per usarlo, tagli tutta la foresta, e quello è un altro problema enorme, perché quando tagli tutta la foresta il suolo viene esposto e tutta la pioggia, gli elementi lo erodono via. Certo. Il problema dell'erosione del suolo è uno dei maggiori problemi che ha l'umanità al giorno d'oggi, perché perdi suolo che non è una cosa che si rigenera in una settimana, ci mette decenni, se non secoli. Un bello sbatti. Esatto. Ok. Manca l'ultimo approccio. Esatto. L'approccio più moderno e, diciamo, illuminato, che poi sicuramente tra 30 anni si scoprirà che anche questo aveva i suoi difetti e tutte queste cose qua. Però, insomma, l'approccio moderno è dire: ok, le foreste sono un sistema estremamente complesso, allora non mettiamoci troppo mano, cerchiamo di mantenere le foreste, anche quelle produttive, più vicine possibile al loro stato naturale. E quindi, sì, il sistema viene considerato come una composto da più parti che non sono solo la specie di alberi che vuoi coltivare, ma anche il sottobosco, gli animali che ci vivono, gli insetti che ci vivono. Certo. E soprattutto un'altra cosa importantissima è non avere tutti gli alberi della stessa età, così che se muoiono gli alberi più vecchi ci siano quelli più giovani a ricrescere e che gli alberi più vecchi aiutino gli alberi giovani a ricrescere. Queste cose qua. Poi un altro dei principi moderni è di usare diverse specie, così che se arriva il colpo di siccità o il parassita che uccidono una specie, magari ne hai altre cinque che rimangono nel bosco, quindi non ti ritrovi un'area deserta se muore una specie. Sì, certo. E poi ci sono anche più attenzioni che adesso sono proprio obbligatorie per legge, sia leggi europee che leggi statali, più attenzione verso la biodiversità, che non è direttamente necessaria alla produzione, però è importante per una serie di motivi che sono sempre i soliti, non so, per la ricerca, è importante perché non puoi sapere che magari non sia importante, o certo, cose qui, certo. E quindi ci sono obblighi di lasciare legno morto, che in italiano, in inglese ha un nome noioso tipo dead wood, quindi legno morto, mentre in italiano si chiama necromassa forestale. Che è molto più glorioso come nome. Molto più glorioso, starebbe benissimo nei testi di Pulsar, la necromassa o dei DSA Commando, non lo so. Insomma, esatto. Una cosa che non si vede nelle foreste di oggi sono alberi schiantati, cioè non trovi legno marcescente quasi. O comunque una cosa rara, soprattutto tronchi grossi, perché era visto come o uno spreco di legno, lasciarlo lì a marcire, o come disordine. E quindi è bello vedere il sottobosco bello pulito dove puoi camminare, certo. Però non è una cosa naturale. In realtà più di metà della biodiversità che si trova in una foresta sta nel legno che marcisce, perché ci sono comunità di insetti, funghi, batteri, topi, uccelli, animali, insomma, di tutto e di più, che esiste solo e unicamente in quella parte di bosco. E quindi adesso è molto più regolamentato ed è obbligatorio lasciare una certa quantità di metri cubi di necromassa nelle foreste, in ogni okay. Area. E poi okay, ci sono quindi anche le diversità in generale. Certo, quindi diciamo che con l'andare avanti del tempo si è passati da un sostanziale, come dire, gestione molto meticolosa del bosco già esistente, che era quella vecchissima, diciamo, della tradizione, insomma, nell'antichità, nel Medioevo, eccetera, eccetera, a una monocoltura di alberi, 100% produzione, e ultracapitalismo, e poi l'approccio più moderno, che è quello che tiene conto comunque di quanto può essere produttiva una certa zona adibita a foresta, però attenta anche alla biodiversità. Esatto. Okay. E la cosa è che questo ultimo metodo in realtà richiede ancora più attenzione rispetto a quello per avere la massima produttività, perché quando tu punti a massimizzare la produttività, pianti un sacco di piante vicine l'una all'altra, e quindi tutte queste piante competono un sacco per la luce, quindi crescono dritte per arrivare sopra gli altri, però crescono tutti alla stessa velocità, e quindi ti viene una foresta che per un boscaiolo è un paradiso, perché hai tutti questi alberi che sono dei paletti perfetti, certo, drittissimi, tutti uguali. E quello è un legno che non ha imperfezioni, perché ogni volta che esce un ramo da un albero dentro nel tronco, cioè è tutto nodoso il tronco in quel punto. E quindi è molto più difficile da lavorare e ha un valore più basso. Quindi l'uso delle foreste, la coltivazione delle foreste punta ad avere i tronchi più dritti e uniformi possibili. E avere questo tipo di tronchi in una foresta più vicina allo stato naturale è molto difficile. E quindi è inevitabile che un tipo di foresta volto alla produzione del legno, però questo tipo di foresta coltivato in questo modo costa molto di più sia come manutenzione che il costo dato dal non guadagnarci tanto quanto. Ok. Tuttavia è un gioco che ne vale la candela, perché se l'alternativa è rischiare che tutto muoia per un evento climatico, certo, estremo, che sono sempre più frequenti, secondo me ne vale la pena. Sì. E anche sì. secondo i governi di tutta Europa, di fa, in realtà. Perché tutte le nuove regolamentazioni forestali puntano più, a questo, molto di più, a questo approccio più moderno. Ok, ma senti, se tu fossi tipo il capo del mondo e avessi una bacchetta magica e potessi decidere di riforestare nel modo ideale per te, come lo faresti? Che domanda contorta che ti ho fatto. Cioè, se avessi una bacchetta magica, secondo te qual è il modo di riforestare nel mondo ideale? Questa è una cosa difficilissima. E purtroppo non c'è un modo ideale, perché la risposta è dipende. Perché una foresta può avere diverse funzioni. Nel senso, ci sta assolutamente la funzione della biodiversità e dello stoccaggio della CO2, ed è importantissimo. E quello è una delle funzioni più importanti delle foreste. Quello è assolutamente fuori da qualsiasi discussione. Ed è anche necessaria la presenza di foreste che stiano lì solo per il fatto che sono foreste, senza bisogno di produzione o che ci vada la gente, nulla. Però quello non può essere l'unica funzione di una foresta, perché il legno è il materiale più ecologico che abbiamo, di fatto. Perché non solo cresce diminuendo la CO2 nel mondo, assorbendo la CO2 e senza fare alcun danno alla natura, perché se fa qualcosa la migliora. Oltretutto, se tu usi il legno, ogni cosa di legno che hai in casa è una serie di mattoni di CO2 che non sono nell'aria a causare il riscaldamento climatico. Certo. Quindi quanti più edifici e quanto più mobilio è costruito di legna, tanta più CO2 viene stoccata all'interno dell'infrastruttura umana, che è, se la metti in parallelo con le foreste, al giorno d'oggi è una porzione importante della superficie mondiale. Quindi se tutto fosse fatto di legno invece che di cemento, boh, magari non ci sarebbe neanche tutto sto gran problema della CO2 nell'atmosfera. E quindi, dovendo usare il legno, perché se usassimo solo la plastica, il cemento e il ferro saremmo con le gambe all'aria, sì, certo, è necessario che alcune foreste siano adibite alla produzione di legno. E quindi uno che deve fare questa scelta deve scegliere quali foreste siano adibite alla produzione del legno, in quali zone e in che modo questa produzione venga fatta. E quindi, per dire quali foreste siano adibite alla produzione del legno, cioè la prima cosa in assoluto è assolutamente non colpire foreste primarie, ovvero le foreste che non sono mai state tagliate. Perché, per esempio, in Europa le foreste primarie sono scomparse, di fatto. Ce ne sono pochissime, veramente poche. In Italia forse ce n'è magari 10 ettari, in Sardegna, e in Europa ce n'è una zona al confine tra la Polonia e la Bielorussia, la foresta di Bielowieza. Fine. Tutte le altre foreste d'Europa sono state tagliate almeno una volta dagli umani. Anche quella più vecchia, la più selvaggia di cui si possa pensare, è stata tagliata. Questo non c'è dubbio. Quindi okay, queste foreste che non sono mai state tagliate hanno caratteristiche che sono uniche al mondo e che rendono queste foreste molto più preziose di, boh, a mio avviso, di praticamente qualsiasi altra cosa ci sia. cioè alla pari delle barriere coralline e queste foreste in realtà non sono in Europa, quindi la questione per lo più è non, come si dice, non utilizzare legna prodotta dai disboscamenti in Indonesia, nel Borneo o in Australia o in alcune parti del Canada o del Sud America o dell'Africa. Quindi, cioè, in Europa ormai le foreste non hanno più un gran valore, purtroppo, per quanto ce ne siano di molto vecchie e così, però non è la stessa cosa. Ecco, quindi queste Ok, quindi foreste queste sicuramente non vanno toccate in nessun assolutamente no, modo. anzi, andrebbero difese con gli eserciti, se fosse per me. Secondo, quindi, quali foreste possono essere colpite dalla scure dell'uomo? È necessario che vadano delle persone che studino queste foreste e sappiano dire, fare una specie di graduatoria della biodiversità che viene contenuta in queste foreste, dal loro ruolo come corridoi ecologici. Insomma, ci sono un miliardo di parametri per valutare Ok. quanto sia, tra virgolette, preziosa una foresta. E quindi andrebbero, se proprio si deve, andrebbero tagliate le meno preziose di tutte, mentre ad oggi in Europa quasi non si disbosca più perché c'è tutta questa attenzione, si disboscano solo le foreste più preziose. Tutte in Australia, in Africa, solo le foreste primarie in realtà sono quelle tagliate oggi, per lo più. E Perfetto. nel momento in cui devi creare una foresta, ci sta a farlo ponendo attenzione alla natura, e secondo me il modo migliore è, quando hai un'area, fare una zona, un perimetro di foresta usata un pochino in modo un pochino più intensivo, perché da qualche parte il legno va tenuto. Certo. Però non assolutamente non in uno stile di monocoltura di abete, ma una foresta un po' più varia. Però ci starebbe all'interno di queste foreste mantenere un nucleo o più nuclei separati, dove è meno probabile che vada la gente perché sono più inculate dentro la foresta. E però questo nucleo lo mantieni più selvatico, cioè privo di disturbo quasi. In Ok, ma ci sta. Quindi a questo strati modo, più o sì. meno. Esatto, a strati, sì, si chiamano buffer, queste zone di buffer, di cuscinetto, perché in modo da creare una separazione tra i campi o la città e la foresta più selvaggia. Perché Certo. altrimenti se hai un perimetro di foresta selvaggia con i campi, ci sono tutta una serie di dinamiche per cui la foresta viene degradata molto più facilmente, perché gli animali tendono ad andare più verso i confini della foresta, perché c'è più problemi che arrivano dall'esterno, insomma, si complica tutto. Quindi è meglio che ci Ok. sia una fascia cuscinetto e all'interno una foresta un po' più produttiva. Ok. Ah, questa era una panoramica sulla riforestazione naturale, artificiale, che modi, che tipi e via dicendo. Mandiamo una canzone che è un pezzaccio clamoroso di DJ Graff, che è L'attitudine. Clamoroso. E ce lo sentiamo, ci facciamo pigliare bene dalle vibre che manda e poi partiamo con la seconda tranche di questa puntata. E io. Ti liberi coi libri dove vibri con il palpito di un colibrì, se collabori dentro un'otta ascensionale, elabori sui libri più celebri, disfatto dal pulpito astrale, tra i rigori gingheri dove osano i più burberi, nel verso contrario come i gamberi, questo è quello che mi va di fare, inutile bussare aperto, domandare lecito, ma io di risposte sto accorto. Non serve a nulla il resto se senti l'amore che ti porto, sto a posto. Bella lì, vengo per il bene del rap come a Napoli, se ti va seguimi, ma non mi posso fermare. Sto in viaggio verso un nuovo concerto col fare risorto dentro quello che troverò. Suonerò le mie canzoni per sapere dopo che c'è. questo è quello che mi va di fare, musicare e scoprirò le tue emozioni, bevo delle sempre con me, questo è quello che mi va di fare. Concerti, giochi a come puoi conciarti tra i liquidi che arrivi aperti, quando al bar ti ritrovi con un'altra cassa per riaverti e li avverti che c'è beatitudine, saperti al vertice dentro il vortice, quanto il partice per l'attitudine tra stelle e svari, sommerso dalle particelle elementari, perso dove impari, lontano dai cattivi pensieri, non sono solo affari, non sono solo suoni, se viaggi tra i più seri, non sono solo canzonette, in mezzo a cesti veri tra finzioni, etichette e marchette, io resto sui piatti miei, tagli miei, versi miei, questo si riflette dentro quello che troverò, suonerò le mie canzoni per sapere dopo che c'è, questo è quello che mi va di fare, musicare e scoprirò le tue emozioni. Rieccoci qua, sempre su Radio ZM, sempre pillole di ecologia. Questo era DJ Graf con L'attitudine, pezzone clamoroso. E sarà l'ultimo pezzo di oggi che vi propongo io. Gli altri due sono stati scelti dall'eminente ospite che abbiamo qua con noi. Che responsabilità. E abbiamo parlato di riforestazione. Abbiamo parlato di tutti i modi possibili e immaginabili in cui può avvenire, naturalmente artificialmente, buone pratiche di deforestazione e riforestazione, cattive pratiche. E parliamo adesso della situazione in Italia. Diciamo non esatto. Nella storia totale dell'Italia, perché sarebbe un filino troppo lungo, diciamo dall'unità d'Italia in avanti, quindi da metà 800. Ci sta. Che succede? L'Italia... Allora, l'Italia è un paese che di fatto è un paese forestale, nel senso se non ci fosse l'uomo l'Italia sarebbe quasi integralmente coperta di foreste, se non in alcune zone più particolari. Però l'uomo c'è stato dal tempo da 150.000 milioni di anni fa, magari 10.000 anni fa, e quindi l'impatto dell'uomo si è fatto sentire in modo molto notevole. Ok. Però saltiamo tutta la parte più vecchia e partiamo dall'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia coincide con la rivoluzione industriale. Quindi con l'Unità d'Italia arrivano le ferrovie, e le prime industrie pesanti e davvero grosse, e il motore a vapore, quelle robe lì. E quindi... quello che dal punto di vista delle foreste noi vediamo un boom della popolazione che aumenta a dismisura, una popolazione che tuttavia ancora non ha a disposizione il petrolio, il gas naturale o le dighe. Magari le dighe, no, le dighe non so quando hanno iniziato a costruirle, però più nel Novecento. Comunque non ha ancora i modi di produrre energia moderni. Quindi brucia legna. E quindi, ecco, sì, di fatto deve bruciare la legna, cioè è una società che funziona a legna o a carbone quando va un po' meno bene. E la legna viene usata da questa popolazione per scaldare le case, cucinare, costruire, sciogliere il ferro e quelle robe lì per costruire le cose. E quindi abbiamo una popolazione enorme che ha un impatto enorme sulle foreste. E quindi in questi anni, verso la fine dell'Ottocento, l'Italia arriva al minimo storico di copertura forestale, ovvero circa il 15% okay. di copertura forestale, che è molto poco. Per contrasto, oggi la copertura forestale è circa il 40%. Quindi dal 1800 a oggi l'Italia ha più che raddoppiato la copertura forestale, quasi okay. triplicato. Okay. Che secondo me è una cosa peso. Eh sì, ci sta. Una bella roba. Sì. La questione è che lo Stato Sabaudo, che allora regnava l'Italia, si accorge che c'è un problema con l'assenza di foreste, ovvero che l'erosione ha al campo libero, e quindi lo Stato Sabaudo deve promulgare una nuova e la prima legge forestale dello Stato italiano, ovvero una legge che governa e vincola l'uso delle foreste in Italia. Ok. E quindi, tra l'altro, citando il testo di questa legge, che non so a memoria, ce l'ho scritto qua, cioè, dice, non preoccupatevi. Praticamente questa legge vincola le pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno. Quindi tutti i boschi che arrivano fino all'altezza massima dove cresce il castagno, che cresce solo fino a una certa altezza, tipo mille qualcosa metri sul livello del mare, fino a lì il taglio dei boschi è regolamentato, perché, questo è testuale, una volta disboscate o dissodate possono provocare smottamenti, frane o valanghe. Quindi già allora si rendono conto che se tu disboschi il fianco di una montagna, quello frana, perché le radici non ci sono più. Ok. E questa legge, tuttavia, non funziona, perché ci sono inconsulti tagli e smodati pascoli che causano miseria nei paesi e danno origine a frane, valanghe, straripamenti di fiumi e torrenti, con non poco danno alle proprietà in pianura e alle volte anche di vite umane. Quindi loro ci provano a fare una legge che controlli queste cose, quindi il pascolo e il taglio dei boschi, perché un'altra cosa è che un sacco di persone devono mangiare un sacco, e quindi tutti i pastori che abitano le montagne, perché le pianure venivano usate per coltivare, però le montagne erano i pascoli, loro disboscano più che possono, perché più disboscano più pascoli ci sono per le mucche e le capre, le pecore e quello che si vuole. E quindi i pascoli alpini in questo periodo raggiungono la massima estensione al prezzo di valanghe e alluvioni. E però lo Stato, d'altra parte, cerca di regolamentare questa cosa. Quindi viene fatta una nuova regolamentazione nell'inizio del Novecento, che è tuttora in parte in vigore. Viene creato il corpo forestale. Ok. È una nuova regolamentazione. Okay. E questa regolamentazione cerca di limitare i danni fatti dalle attività agropastorali. Tuttavia queste attività okay. sono quelle che spariscono in quel periodo, perché ci sono metodi molto più efficienti di produrre cibo, c'è meno bisogno di cibo perché la prima guerra mondiale ha fatto morire un po' di persone, e quindi quelle attività spariscono. Al loro posto ci sono nuove attività che non sono regolamentate, ovvero la costruzione di elettrodotti, che sono cose per collegare l'elettricità, i tralicci sì, elettrici, quindi, okay. piste da sci, perché c'è più ricchezza e la gente, o almeno ci sono ricchi più ricchi o più ricchi, un numero maggiore di ricchi che possono sciare, che inizia a piacergli lo sci, e quindi vengono le piste da sci sono un disastro per la natura, perché vengono completamente denaturalizzate delle enormi aree per costruirle. E poi ci sono insediamenti speculativi, costruzioni abusive, solite cose italiane, E quindi abusi abusivi, citando Elio. E quindi sì, ancora una volta si fa fatica, però diciamo che il peso maggiore che c'era sulle foreste italiane, ovvero il pascolo e l'uso del bosco, va calando, perché qui adesso inizia anche a essere usato il petrolio e il gas naturale, quindi c'è un impatto molto minore sulle foreste. Okay. E poi, quindi l'impatto della pastorizia continua a diminuire in tutto il Novecento fino anche ad oggi, e quindi si ha un esteso abbandono delle campagne, e al contempo si hanno riforestazioni attive, perché con l'abbandono delle campagne tutti questi pascoli non servono più, allora lo Stato cosa fa? Pianta foreste, sperando di poterci tirar fuori dei soldi, o perlomeno per impedire le frane, per stabilizzare i pendenti delle montagne. E quindi questo dà il via a un processo di riforestazione naturale per la stragrande maggioranza, che rigenera e più che raddoppia l'estensione delle foreste in Italia. La questione è che adesso noi ci ritroviamo con un sacco di zone che hanno foreste estremamente giovani, quindi che non hanno tutta questa biodiversità, che però sono ben avviate per averla, e un sacco di foreste che invece sono state piantate con i criteri della massima produttività, okay, che c'erano nel Novecento, e che adesso sono un problema, perché in primo luogo non sono state curate nel corso del loro sviluppo, cioè dopo un po' sono state mandate a fanculo, mentre invece se le pianti devi farci attenzione, devi ogni tanto diradare gli alberi, tagliarne un po', così, se non lo fai la foresta diventa un ammasso di legna di cui non ti puoi far nulla. Ok. È quello che è successo in moltissimi posti, soprattutto nelle zone più pendenti. E quindi noi abbiamo questa eredità che adesso sta dando dei problemi, perché sono zone di foreste, sono le foreste più vulnerabili che ci sono in Italia, e anche quelle dal valore più basso. Ok, ma quindi tu parlavi di zone più collinari o montuose e zone, insomma, campagne che sono state abbandonate, si ricrea la foresta. Sì. In Italia dove sono ricresciute le foreste e che tipo di vegetazione c'è in queste foreste nuove, diciamo? Le foreste sono cresciute nelle zone che non sono state usate per l'agricoltura, come diciamo come linea generale, e quindi di fatto nelle zone montuose, quindi su tutti gli Appennini e su tutte le Alpi. E, okay. Mentre invece nelle pianure c'è stato un progressivo disboscamento, cioè quel poco che era rimasto hanno continuato a tagliarlo, meno che le zone dove il legno veniva prodotto in pianura, ovvero le foreste di pioppo della pianura padana. E un altro caso sono le brughiere, che sono un ambiente aperto che si sviluppa su suoli, i suoli più scrausi di tutti, ci cresce la brughiera nei suoli più scrausi di tutti, dove non si può coltivare. Okay. Queste zone erano viste nel Novecento come zone estremamente improduttive e inutili, insomma un problema, e quindi hanno pensato di piantarci alberi che invece riuscissero a crescere nelle brughiere. E hanno avuto la eccezionale idea di piantarci sia la robinia che l'ailanto, i soliti nemici pubblici numero uno, okay, ai quali piace tantissimo il suolo delle brughiere, e che di fatto le hanno completamente dominate. Quindi oggi la brughiera che si trova nell'alta pianura padana, per esempio nelle zone di Varese, un'altra grossa brughiera c'è a Malpensa, dove appunto la brughiera appunto è così odiata che ci hanno fatto un aeroporto, che cioè, okay, immagina tipo 100.000 chilometri quadrati di cemento, molto meglio che una brughiera, nell'opinione di uno Stato. Certo. E quindi questo è un ambiente che in realtà c'ha il suo valore dal punto di vista della biodiversità, che però è andato completamente distrutto, cioè ne resta veramente poco. E quindi sì, le foreste sono cresciute nei pascoli alpini e degli Appennini e in poche zone meno produttive dove non si potevano fare i campi o dove non hanno fatto i capannoni e le industrie. Ok. O gli aeroporti a questo punto. O gli aeroporti, esatto. Okay. La vegetazione che c'è cresciuta è, da un lato, nelle zone dove le piante invasive non riuscivano ad arrivare, sono una vegetazione naturale, quindi ci sta seguendo il processo di successione come dovrebbe, senza alcun problema. In altre zone, invece, le piante pioniere che hanno dominato la successione sono specie invasive. Ok. Anche la quercia rossa americana, che adesso è vietato piantare, è una di queste specie che furono piantate copiosamente. Ok. E quindi... questo è in Italia la riforestazione, cioè come sono ricresciute le foreste più o meno naturalmente. Mm-hmm. E invece ci sono degli esempi di riforestazione artificiale in Italia, magari esempi brutti, negativi, e esempi invece che sono stati funzionali? Sì, è come. Cioè, in realtà è difficile trovare informazioni su queste cose. Perché sono tutti dei documenti che vengono fatti dalle varie agenzie forestali regionali, che sono tutte robe dello Stato. Tuttavia, navigare i siti, sì, immagino, internet dello Stato è un'odissea, quindi è difficile trovare i documenti. Però, diciamo, a capo della fila degli interventi peggiori che si possano fare sono stati quelli del dopoguerra, di cui abbiamo già parlato, quindi questi interventi fatti per mettere una pezza nei pendenti a rischio frane cercare di aumentare il valore dei terreni poco produttivi come le brughiere. Ok. Quindi sì, gli esempi peggiori sono queste riforestazioni artificiali fatte nel dopoguerra, ma anche queste le riforestazioni più commerciali, con monoculture di abete. E un esempio estremamente importante di questo sono moltissime foreste alpine fatte di conifere, soprattutto nella zona delle Prealpi. Se tu ti trovi nelle Prealpi e ti ritrovi in una foresta di conifere, quella è una foresta molto poco naturale. E il Trentino è molto famoso per queste foreste perché danno un aspetto più montagna alla montagna, no? Le foreste le pinete, sì, certo, proprio Babbo Natale, esatto. Però non è una cosa che è al posto suo in Italia, e infatti questa riforestazione commerciale che è stata fatta soprattutto, cioè molto anche in Trentino, è un pessimo esempio di uso delle foreste. E quegli alberi lì del Trentino sono gli stessi che la tempesta Vaia, qualche anno fa, non mi ricordo in che anno. Sì, mi sembra un paio di anni fa. Esatto. Insomma, c'è stata una tempesta, questi erano tutti alberi, tutti vicini, tutti con le radici superficiali perché erano abeti, tutti magari spesso anche un po' malaticci perché, insomma, c'erano i parassiti. Insomma, se ne sono persi centinaia di ettari. E ok, questi erano abeti usati per costruire i violini del massimo valore, però tant'è che quello che ci si ritrova adesso è nulla. E quindi questi erano alberi che erano stati piantati troppo vicini, una specie che non era adatta al luogo dove cresceva. Poi, magari non in Trentino perché appunto era una foresta usata per la produzione del legno, ma in molti casi sono stati abbandonati, ci si fa la monocoltura, quindi sono piante che si ammalano tutti assieme e non formano quindi una foresta. Ok, come dicevamo all'inizio, no? Cioè, esatto, che quando c'è un problema a un albero di questa foresta si propaga a qualsiasi altro albero perché sono tutti uguali. Esatto. In sostanza. Esatto. Ok. Yeah. Ah, e un altro pessimo esempio sono le bonifiche delle paludi fatte dai fascisti. Oh. Che sono tante. Cioè, è una delle famose cose buone, anche cose buone, in realtà sono state fatte male. Perfetto. Sono state fatte di merda, perché le paludi, appunto, nell'ottica di un tempo che tutto il terreno doveva essere utile e che non si aveva alcun riguardo per la biodiversità, le paludi chiaramente non le vuoi avere, perché ci pigli la malaria, ci sono le zanzare, non ci coltivi nulla, insomma, pessimo. Però al giorno d'oggi le paludi, si scopre che la stragrande maggioranza della CO2 che viene conservata nel suolo si trova dove? Nelle paludi. E quindi prosciugare le paludi e farci le piantagioni è un'idea del cazzo, e chi ha avuto l'idea del cazzo? I signori fascisti. E insomma, quando adesso diciamo che quello che ci rimane di quello sono le bellissime pinete mediterranee che ci sono in Toscana o nell'Agropontino, lì, insomma, nelle zone marittime. Quelle erano zone che erano paludose nel passato e che sono state prosciugate costruendo dei fossati, e poi una volta prosciugate le hanno disboscate di quello che ci cresceva e ci hanno piantato i pini che vengono chiamati pini marittimi, ma in realtà si chiama pino domestico, i pini ombrello, quelli per cui si pigliano i pinoli. Per fare il pesto. Esatto. Queste pinete sono dei deserti di biodiversità, mentre invece le paludi che c'erano prima erano una bomba, cioè nel senso positivo, una figata clamorosa. Okay. Dal punto di vista della biodiversità, tutta l'avifauna e un sacco di animali ci vivevano, piante speciali, uniche, così quello è andato tutto perduto per avere le pinete che sono belle, però da un punto di vista ecologico sono delle monoculture di pino. Ok. E il sottobosco di queste zone è nullo, cioè ci cresce veramente poco o nulla, e il problema è che questi sono suoli che non possono essere usati a lungo, perché sono privi di una componente minerale, perché nelle paludi hai solo le paludi, il suolo delle paludi è solo un mucchio di materiale organico in decomposizione. Sì. Quindi tu lo asciughi e hai un suolo che è fatto solo di materiale organico, quindi che non ha sabbia o componente minerale, che all'inizio è molto fertile, perché questo materiale organico decomponendosi libera tutti i nutrienti. Però è una cosa che si consuma e nel tempo sparisce. E adesso siamo arrivati al punto in cui è sparito. Quindi sono suoli che hanno una data di scadenza e che, peraltro, essendo in zone paludose, cioè la zona era paludosa perché era una zona dove la falda acquifera è molto alta, e quindi se non le mantieni, la falda acquifera torna come era e si riallagano e si va tutto a puttane. Soprattutto se l'acqua viene dal mare, perché se le zone costiere, che sono con un suolo particolarmente basso, magari neanche un metro di altezza dal livello del mare, praticamente pari, l'acqua marina filtra e quando c'hai l'acqua marina che ti entra nel suolo che coltivi, è un disastro, perché il sale del mare uccide tutto. Ok. E senti, invece, prima di mandare la seconda traccia, una botta di ottimismo: ci sono dei buoni esempi di riforestazione in Italia? Ottimismo è il profumo della vita. E sì, uno dei buoni esempi è quello che hanno fatto dopo il disastro delle foreste della tempesta di Vaia. Appunto, sempre in Trentino. Hanno abbastanza soldi, quindi non devono preoccuparsi di avere una foresta che produca quanto più possibile, e possono permettersi di investire per un intervento più oculato e fatto meglio. E quindi nell'altopiano di Asiago hanno fatto, o perlomeno una parte della zona che è stata distrutta, è stata riforestata con un approccio molto più moderno, e quindi usando solo specie autoctone, e non, quindi non abete rosso, ma abete bianco, larici, sorbi, betulle, faggi, aceri, frassini. Ok, quindi tante specie diverse, tutte autoctone, quindi insomma dei tre modelli all'inizio, quello più moderno. Esatto, e lasciando una porzione, ovviamente non tutti, perché una minima di cash dovevamo farceli con quella foresta. Poi tutti sarebbero anche stati un po' troppi. Però una parte degli alberi caduti li hanno lasciati, così che siano la casa di tutti gli organismi che hanno bisogno di legno marcescente per esistere. E peraltro nel fare questo progetto hanno fatto una cosa che ci sta sempre, ovvero coinvolgere la popolazione e includere alcune zone più didattiche perché la gente possa imparare che la foresta di conifere pura non è una cosa che ha ragion d'essere, perché insomma è importante anche che tutti siano consapevoli di cosa sia una buona foresta e di cos'è una foresta certo. Pacco. E quindi ci sta, ma comunque più in generale è stato sviluppato un nuovo piano di indirizzo forestale, che è diciamo una linea guida fatta dallo Stato, dal Ministero dell'Ambiente, una serie di linee guide su come gestire le foreste. E questo è indirizzo forestale, quindi come gestire le foreste in modo da indirizzarle in una certa direzione. E questo piano di indirizzo forestale ci sta perché era molto criticato perché dice che rende le foreste delle zone di produzione di nuovo, però di fatto lo sono sempre stato, meno che negli ultimi pochi decenni, da un punto di vista. E dall'altro, senza delle linee guida, se una foresta doveva essere usata, veniva usata a cazzo. Quindi ci sta che perlomeno ci siano delle regole su sì, come sì, fare. Certo, poi... Voglio dire, da sempre, come hai detto tu prima, l'utilizzo di legname è una necessità dell'uomo e quindi l'unico modo è utilizzare in modo sensato, funzionale e, come dire, sostenibile, nel senso che tu magari ricrei la stessa quantità di legname di quello che utilizzi. Esatto. Cioè, di fatto la cosa è, se proprio devi usare il legno, fallo nel modo migliore possibile. E il legno lo devi usare, quindi esatto. Va fatto nel modo migliore possibile. E il nuovo piano di indirizzo forestale punta a quello, nel senso una delle cose di questo piano è sostituire progressivamente questi boschi, appunto queste monoculture, con boschi diversi. Adesso è proprio tra le regole il fatto che bisogna puntare ad avere il bosco con la biodiversità più alta, insomma, con tutte queste regolamentazioni che possono migliorare la salute dei boschi italiani in generale. Ok. E quindi ci sta. Ci sta. Qual è la prima delle due tracce che ci proponi questa sera, mio caro Dave? La prima delle due tracce l'ho scelta solo perché c'è la parola green nel titolo. Ok. E è una canzone che i nostri... milioni di ascoltatori conosceranno dal film Le Iene di Quentin Tarantino. Okay. Si chiama Little Green Bag di George Baker Selection. Ah, no. Ok. Magari non si chiama Selection, vabbè, George Baker. Ok, quindi Little Green Bag è una ricercatissima proposta musicale, oserei dire. Esatto, ricercatissima. Ok, ce la sentiamo e ci sentiamo subito dopo, sempre a pillole di ecologia, sempre su Radio ZM per l'ultima parte della puntata di stasera. Yeah. E io. Veramente un pezzo, proprio una bella colonna sonora dei vecchi tempi. Eh sì. E niente, entriamo a bomba, sempre con il nostro approccio dal più generale al più particolare, la parte che dicevi tu all'inizio, che riguarda di più la città di Milano. Esatto. Quindi, diciamo, abbiamo parlato della riforestazione in generale, cosa succede in Italia. Parliamo della nostra amata e odiata città. Esatto, la nostra nicchia. Esatto, in una puntata precedente che era proprio approfondita sugli ecosistemi urbani, ecco, mi dimentico sempre di dirlo, ricordiamo agli ascoltatori e le ascoltatrici che tutte le puntate di Pillole di Ecologia, come tutte le puntate degli altri programmi di Radio ZM, sono ascoltabili con dei podcast che trovate sul sito di ZAM. Tra l'altro il nostro buon Lore ha rifatto tutto il layout del sito e quindi è una figata, perché veramente ogni programma c'ha la sua parte dedicata, super figo proprio. Quindi in quella puntata lì sugli ecosistemi urbani avevamo detto sostanzialmente che più alberi ci sono in una città meglio è, esatto, per tutti i benefici ecosistemici che portano. E tutto il benessere che portano alle persone. Esatto. La città ha bisogno di alberi. Punto. Questo è un punto, cioè non è contestabile. E okay, a maggior ragione in Italia. Questo perché, soprattutto nelle parti molto cementificate, questa cosa? Esatto, perché l'Italia è un paese ultra cementificato. Cioè, che si cementifica più che si può e ha estremo rischio idrogeologico, ovvero con tutte le valli e vallette e montagne che abbiamo, ogni volta che distruggi del suolo o una foresta ti viene fuori un'alluvione e ci sono i disastri. Ogni cazzo di anno succede che in Liguria... La Liguria è la principessa di ste cose, perché ogni cazzo di anno c'hanno l'alluvione, il disastro, ed è un problema. Però non viene fatta una gestione che permetta di prevenire ste cose. Ma la cosa è dovuta alla cementificazione della speculazione edilizia che fu fatta nel passato, in realtà. Però l'Italia non è un posto dove puoi a cuor leggero tagliare foreste o pensare di non dover piantare alberi. Diciamo la mega metropoli di Milano e della pianura padana non fa eccezione. Esatto. Ha bisogno, un bisogno disperato, visto tutte le migliaia di persone che muoiono ogni anno per l'inquinamento, è importantissimo che vengano piantati gli alberi. E tutti i motivi per cui questi debbano essere piantati li raccontiamo in quell'altra puntata del passato. Esatto, che quindi vi invitiamo ad andare a sentire se vi interessa. Esatto. Quindi, diciamo, il progetto del Comune di Milano, Riforestami, partendo dal presupposto che abbiamo fatto adesso, dovrebbe essere una buona iniziativa. Cioè, che cosa prevede, diciamo, sulla carta questa roba qui? Prevede di piantare 3 milioni di alberi, almeno all'inizio era, nella città di Milano. Esatto. 3 milioni di alberi nella città di Milano farebbero una differenza non indifferente. Che mi sembra la palissia, si dice la palissia. Farebbero la palissia, una... certo. Chiaro che se fanno una differenza non è indifferente. Beh, comunque fanno una differenza importante nella città. Il problema qual è? Esatto. Il problema è dove cazzo li pianti 3 milioni di alberi? Hanno fatto questo piano non avendo idea del fatto che 3 milioni di alberi occupano uno spazio enorme. E quindi, quando hanno fatto questo piano era solo un'idea politica volta a portare consenso e fare quelli che sembrano tutti green e così, che però non aveva fondamenta, era un castello esatto. Di carta. E infatti poi nel tempo si è via via ridimensionato, cioè esatto. Prima doveva essere solo nella città di Milano, adesso è nell'area metropolitana, che è la vecchia provincia. Quindi esatto. È una, diciamo, un'estensione molto più grande di territorio. Esatto. Poi un'altra differenza è che i 3 milioni di alberi sono diventati 3 milioni di piante, che quindi esatto. Comprendono alberi e anche piante più piccole. Esatto, che uno dice piantare un albero ha senso perché l'albero vive 80, magari anche 100 o se ti va bene 200 o 300 anni, se pianti la specie giusta. Un arbusto non vive così tanto. Certo, quindi ha bisogno di... L'arbusto perché faccia una siepe e l'arbusto fa la siepe solo per un certo numero di anni, poi è inutile. E comunque... La massa, la biomassa di un arbusto non è paragonabile a quella di un albero, certo. Quindi l'effetto in termini di CO2 non è, magari fanno bene per l'inquinamento, però come assorbimento di CO2, che in teoria dovrebbe essere una delle prime attenzioni di questo progetto, sì. È una cazzata. Diciamo, invece c'è un pregio, se possiamo trovarlo, te lo chiedo da, come dire, esperto del settore. Sì, i pregi sono due addirittura, che fanno attenzione alle piante autoctone, che dici, oh, minchia, finalmente è entrato il concetto. Quindi, in teoria, verranno usate solo piante che crescono spontaneamente in Italia e che ci sono sempre cresciute. Quindi non c'è il rischio che gli venga in mente di usare questa nuova pianta della Cina, che cresce super veloce, non ha problemi, e poi diventa invasiva, come invece facevano qualche decennio fa. Ok. E l'altra cosa buona è che questo progetto è presieduto da un comitato scientifico, quindi dovrebbe esserci, si spera, okay. Un'idea appunto scientifica e quindi spinta da quello che funziona meglio, e non politica, quindi spinta da quello che costa meno e che dà i risultati più veloci e in tempo per la prossima elezione. Quindi c'è un comitato scientifico a gestire la cosa. L'unico okay. problema è che a capo di questo comitato scientifico ci sta un architetto che, con tutto il bene che si può volere agli architetti, non sono ecologi, non sono botanici, non sono zoologi, non sono biologi, non... insomma... Si occupano di un'altra roba, cioè... Si occupano di un'altra roba, potevano metterci Einstein, ma sarebbe stato comunque un errore, perché l'architetto non ha gli strumenti per giudicare se una scelta di un certo specifico subprogetto di questo Riforestami, se questa scelta sia giusta o sbagliata. Sì, diciamo che a me dà un po' la sensazione che un architetto sia più attento alla parte estetica, visivo-estetica della faccenda, piuttosto che non alla realizzabilità e alla, come dire, ecosostenibilità della roba. Quindi, non so, magari è più bravo a scegliere gli alberi più carini, però... Esatto. Poi, dicendo così, staremo triggerando un milione di architetti. Però, no, ma poi, per carità, costruire un palazzo saranno molto più competenti di un appunto. E ci sono gli architetti del paesaggio che sono bravi a fare i parchi, i cittadini e tutto, però non hanno gli strumenti per fare una foresta. E Ok, quindi questo. mi viene da agganciarmi alla prossima domanda che ci eravamo pensati. È che voi credete che noi stiamo andando a braccio e facendo tutte le cose un po' così come viene? In realtà c'è uno studio molto attento e dettagliato, soprattutto da parte di Dave, devo dire, di tutto quello che stiamo dicendo. E la domanda che mi viene da farti è: dette tutte queste cose, dette anche tutte le premesse dei due spezzoni della puntata di prima, quali sono le caratteristiche di un bosco sensato, cioè che ha senso proprio di esistere, in un ambiente fortemente antropizzato come una città o la provincia di Milano? Questa è un'altra domanda difficile, come dire il modo migliore di fare una riforestazione, che dipende ancora una volta, nel senso è una sfida non indifferente, perché se tu vuoi costruire un bosco in mezzo a Milano, hai inevitabilmente un problema da cui non puoi fuggire, ovvero che ti trovi in una zona estremamente antropizzata, quindi estremamente costruita e affollata da persone, e questo ha un peso enorme sul bosco. E quindi creare un bosco sensato all'interno di una zona sovrappopolata è estremamente difficile. E la domanda da porsi è: cosa vuol dire sensato per il bosco? E quindi qual è la funzione che si vuole dare a questo bosco? Perché purtroppo, se tu ti trovi a decidere di creare un bosco vicino a una città, questo non sarà naturale, perché esiste perché non so, il Dipartimento di Urbanistica di Milano ha deciso che quel bosco doveva essere lì. Quindi sarà necessariamente un bosco che viene gestito molto attentamente e Chiaro. che deve obbedire a tutta una serie di imperativi che l'amministrazione cittadina deve seguire. E quindi la cosa principale è che se si trova accanto a una città, quindi in un contesto ultra antropizzato, è molto difficile avere un bosco che sia propriamente naturale, se non impossibile. Cioè, dovresti come prima cosa impedire alle persone di entrarci. E, ok, se il comune di Milano chiudesse il Parco Nord per farci un bosco, dicendo nessuno ci può più entrare perché è un bosco naturale, le persone sarebbero ugualmente incazzate che se dicessero che, non lo so. Guarda, adesso così sentendoti parlare mi viene in mente che a Milano Ovest c'è una zona che si presta benissimo per questa cosa, che è Piazza d'Armi. Perché praticamente lì, che è praticamente via delle Forze Armate, tutta la zona che prima era caserma, Ah, adesso è in sì. stato di semiabbandono e ha delle parti di cortile, cioè di giardino, enormi, sterminate, tutte diciamo cintate dal muro, e dentro lì si è ricreato un bosco spontaneo, perché appunto lì concretamente la gente non ci può entrare. Esatto. Sì, E io abitavo lì accanto, a quindi Piazza del. quella, sì, esatto, quella è un buon esempio. Ovviamente stanno pensando di tirarlo giù e farci dei palazzi, dei campi da calcio e un giardino cittadino. Chiaro. Purtroppo mi sembra che l'ultima volta che ne avevo sentito parlare, non potevano farlo perché i tritoni, che sono degli anfibi acquatici, vivevano in uno degli stagni che si trovano lì. Quindi presumo che sia stato accidentalmente sversato del materiale tossico in quello stagno No, dai, per speriamo di no. liberarsi del problema. È Ma comunque questo è un esempio che però è, come dire, più unico che raro, un esempio molto, molto raro. In quel campo ci facevano le esercitazioni con i carri armati no? Eh sì. anni fa. In effetti è vero, le aree militari di fatto sono tra le migliori per questo punto di vista, soprattutto quando sono dismesse. Purtroppo, la possibilità, purtroppo l'amministrazione comunale c'è sempre il problema dei soldi, e quindi di dover fare soldi in tutti i modi possibili, vendere terreni per lo sviluppo edilizio è uno dei modi migliori per una città. Sì, che però diciamo va un po' contro questa cosa, appunto, questa cosa pseudo green di riforestami e via dicendo. Sì, va a smascherare plateale. Quanto sia un progetto politico. Sì. Quindi, tornando al nostro discorso, è difficile avere un bosco propriamente naturale, perché anche questo bosco qui, che si trova nel centro di Milano, cioè non nel centro di Milano, nel centro di Milano Ovest, è naturale, però è recintato, quindi non ci sono animali di grossa taglia, magari ci sono qualche volpe, e quindi tutta una serie di dinamiche non si presentano. Sì, certo. Dinamiche dovute agli animali di grossa taglia che si mangiano le piante, la dispersione dei semi è limitata perché i semi per arrivare lì devono attraversare zone di città, sì. Quindi ovviamente gli unici che ce la fanno sono le robinie e gli ailanti, che dominano la vegetazione di quel parco. Insomma, ci sono tutta questa serie di problemi. Però, in generale, la questione è che se tu vuoi un bosco naturale vicino a una città, devi accettare che il bosco naturale è estremamente disordinato e poco accessibile. E in pianura padana il bosco naturale è in buona parte costituito da zone acquitrinose, cioè paludi con alberi che ci crescono dentro. Quindi non sarebbe un bosco accessibile per le persone, o se le persone non vogliono farsi largo tra rovi e arbusti e sottobosco. Quindi c'è ben poco da fare in un bosco per le persone. Oltretutto, cioè, ci si possono fare dei sentieri in questo tipo di bosco, però appunto se ci fai sentieri e tieni un bosco così, hai da una parte un bosco che, essendo in una forma naturale più o meno e quindi disordinata, è poco accessibile, però dall'altra parte lo stesso bosco, per quanto naturale, non è in grado di ospitare la biodiversità di un vero bosco naturale, perché è comunque troppo colpito dal disturbo umano. Certo. Quindi alla fine hai solo gli svantaggi di un bosco naturale, praticamente, se tieni un bosco naturale vicino alla città. Quindi, diciamo, un buon compromesso può essere un bosco gestito, diciamo, con le tecniche moderne di cui parlavamo prima, con una gestione più puntuale, perché appunto è più vicino a un centro abitato, e comunque una zona che sia una via di mezzo tra l'accessibilità delle persone che possano godere di questa, diciamo, zona più naturale della città cementificata e appunto che sia pseudo accessibile. Esatto. Cioè, io penso, sì, appunto, che il miglior approccio sia sempre un compromesso, ovvero che tu magari puoi, anche in questo caso, dividere il bosco in zone più o meno selvatiche, più o meno accessibili, facendo zone cuscinetto dove vadano le persone e zone invece lasciate più o meno al corso della natura. Però, di fatto, hai da una parte l'estremo di bosco estremamente inaccessibile, fatto per la natura, e dall'altra hai un bosco fatto per le persone che invece è ordinato, dove viene ripulito il sottobosco, e che però è povero dal punto di vista della diversità. Ok. E quindi devi trovare il giusto mezzo tra queste due condizioni, e tuttavia la cosa vuol dire che una minima di manutenzione di questo bosco, in modo che sia accessibile per le persone, e poi vabbè anche tipo non pericoloso, che magari non ti cada addosso un ramo, queste robe qua, è necessario farlo se ti trovi vicino a una città. Certo. E una questione molto spinosa che rientra perfettamente dentro questa problematica è la questione del Parco del Ticinello. Sì, quello di cui accennavamo all'inizio e che appunto ha toccato direttamente anche le persone che abitano la zona dove sta ZAM. Esatto. Ovvero, cioè, che cosa sta succedendo al Parco del Ticinello? Il Parco del Ticinello è un parco di una zona rurale. E quindi, in primo luogo, non parte come zona selvaggia. Parte come zona rurale. E vabbè. Cioè, sostanzialmente dove ci sono dei campi. Ci sono dei campi, ci sono delle cascine, delle quali una abbandonata, e ci sono delle zone, delle zone dove si è sviluppata una vegetazione più selvatica. Com'è che si dice le zone, cioè quelle di fianco ai campi che non sono coltivate? Zone ri... non mi viene la parola. Le zone ripariali sono ripariali. Accanto al fiume, ai bordi del fiume. Ah, ok, no, allora avevo il termine sbagliato. Le zone accanto ai campi non so come si chiamino. Beh, comunque quelle, diciamo, dove si creano delle mini boscaglie. Esatto. Queste zone boscaglie sono campi abbandonati, perché magari non tutti i campi della zona venivano usati. Quelli abbandonati si sono rimboschiti, oppure le zone appunto accanto al fiume, o accanto ai canali dove non si coltiva nulla. Queste zone si sono rinaturalizzate, quindi la condizione del Parco del Ticinello adesso è una zona rurale al 100%, che a seguito dell'abbandono delle campagne, appunto dell'abbandono dei campi che lo costituiscono, o di parte di essi, o comunque dell'abbandono delle pratiche tradizionali di gestione del paesaggio rurale di quella zona, si è un po' rinselvatichito. E quindi adesso in questa fase di transizione tra una zona più rurale e quindi capillarmente gestita a una zona più selvatica. E dal punto di vista del comune, questa è una zona in condizioni di abbandono. Dal punto di vista delle persone è una zona estremamente bella, quindi con un enorme pregio estetico e culturale e spirituale, con caratteristiche molto naturali, più naturali di quanto si trovino in un parco cittadino, perché sì, in certo. Un parco cittadino non viene in alcun modo permesso lo sviluppo naturale della vegetazione. Cioè, ogni pianta in ogni parco di Milano è all'interno di un catalogo. C'è una lista di tutti gli alberi di Milano da qualche parte negli uffici del comune. Ok, mentre quelli del Ticinello no. Quelli del Ticinello no. Ci sono una serie di alberi che crescono qua e là. Tu prima parlavi di bordi dei fiumi o dei canali, e nel Ticinello è pieno zeppo di canali, rogge, canaletti, fiumiciattoli, che appunto vengono usati un po' per irrigare i campi, un po' ci sono alcune parti del parco che utilizzano ancora le marcite come tecnica. Esatto. E le marcite sono una cosa che è andata praticamente perduta, che però era questa. Ecco, le marcite sono una delle cose che andrebbero conservate, perché è una pratica culturale tradizionale che permette, per esempio, l'esistenza di alcune specie in quella zona che altrimenti scomparirebbero. Quindi ci sono... quello ha valore e ha estremamente ragion d'essere in virtù di questo. I campi di mais, meno. Non so se ce ne siano nel Ticinello. Sì, è pieno. Quelli sono praticamente solo campi di mais. Ok, quelli sono da considerare come dei parcheggi. A livello di natura e biodiversità. E vabbè. Però appunto tutte le rogge di fianco ai canali sono bellissime, però sono appunto, richiederebbero una gestione molto più intensa di quanta venga data adesso, perché adesso viene permesso alle piante di crescere molto, mentre 100 anni fa ogni pianta che non fosse stata quella che doveva essere lì per mantenere l'argine nelle condizioni in cui era, quindi se non i pioppi belli grossi, che poi sarebbero stati anche quelli tagliati eventualmente per farci la legna, se non i pioppi, qualsiasi altra pianta veniva tagliata d'inverno per farci la legna e bruciarla. Quindi abbiamo una condizione che non è più quella che era quella del passato, quella tradizionale e culturale, perché nel passato era molto più ordinato di quanto fosse adesso. Ma non è neanche selvatico, perché se fosse completamente selvatico non avresti neanche né le rogge, né i canali, né tutte queste cose. Quindi, cioè, sarebbe una sorta di palude, in sostanza. Yeah. Cioè, quello che succede adesso è che se tu smetti di gestire e quindi di fare interventi, che oggi vengono fatti con i macchinari, se tu smetti di fare interventi su questa zona, le rogge vengono, si insabbiano e la vegetazione muore, cade nel fiume, lo intoppa, lo intasa, tutto cresce, tutto si sfalda, si erode, così. Insomma, vanno perdute quelle strutture delle rogge e tutto diventa un acquitrino come la pianura padana era in principio. Quindi quei canali lì sono lì da un lato per irrigare i campi, dall'altro anche per tenere lontana l'acqua dai campi, insomma per sì, certo, gestire questa cosa. Gestire manualmente il livello dell'acqua nei campi. E quindi adesso l'intervento che verrà fatto dal comune, a meno che non venga fermato, consisterebbe nel rimuovere un certo numero di piante dagli argini di questo fiume. E è una cosa molto controversa, appunto perché parte della bellezza di questi fiumi e di queste rogge, questi argini e canali, la loro bellezza sta proprio nel verde rigoglioso che ci si trova. Però quando vai invece a vedere più nel dettaglio, in primo luogo, che cosa costituisce quel verde, in secondo luogo, quali sono le sue conseguenze, l'immagine cambia un po', non è più l'immagine rosea da film della Disney, sì, certo, degli uccellini che abitano negli alberi e vengono disboscati. Sono alberi che per lo più sono specie invasive, sotto le quali, cioè che tolgono spazio alla natura spontanea, quindi tutti i vari fiorellini che si potevano, magari i fiordalisi, le primule, le anemoni, insomma ce ne sono tanti di fiori. Quelli spariscono quando crescono gli ailanti, e gli ailanti sono tra gli alberi che verranno tagliati, quindi per me tagliare gli ailanti ci sta. E sì, diciamo che ci sono posizioni un po' diverse, cioè alcuni sono per no, non tagliamo niente, altri, come dici tu, sono tagliamo per gestire queste zone, quindi ad esempio tagliamo solo le specie invasive di qui e di là, e dall'altro c'è chi invece, come almeno inizialmente era il progetto del comune, mm-hmm, cioè stravolgiamo proprio la fisionomia del parco, quindi appunto mm-hmm, luminarie notturne, strade in cemento, taglio di alberi di più di quelli dello stretto indispensabile e non solo le specie invasive. Insomma, quindi c'è proprio un po' uno stravolgimento di quello che è. Vero è, come dicevi te prima, che comunque non è che partiva da un bosco che viene distrutto, partiva da una zona rurale di campi che è stata un po' abbandonata e si è creato un bosco spontaneo che deve essere gestito. Esatto. Ora, oggi è un bosco molto bello, però tra 20 anni sarà una zona meno accessibile e i canali saranno in condizioni molto peggiori, quindi ci saranno allagamenti. Insomma, da un lato, senza alcuna manutenzione in assoluto, perderebbe di qualità e di abitabilità e accessibilità. Dall'altro, una manutenzione estrema e uno stravolgimento della zona sarebbe un danno enorme per la biodiversità, e quindi io non sono assolutamente per il partito di stravolgerlo, sono certo, assolutamente contro molte di queste cose, appunto, che hai detto, che erano nei piani. Secondo me è una via di mezzo che permetta alla natura di rimanere bella, e comunque ci mette pochi anni a ricrescere tutta quella vegetazione, perché essendo accanto all'acqua può crescere quanto vuole, che privilegi le specie autoctone, che sono un po' una fissazione per me, però hanno il loro valore, e che non faccia un danno troppo grave. Quindi, io se posso parlare, la mia opinione è che ci sta a tagliare le specie invasive, che la questione di tagliare gli alberi perché siano disordinato e spinosa, perché se sono disordinati e quindi sono pericolosi, cioè disordinato è una parola che è stata scelta perché, secondo me, perché è molto vaga e quindi gli dà una certa ampiezza. Sì, diciamo, è versatile uno che dice sistemiamo una cosa disordinata parlando, esatto, di altro. Perché disordinato può essere l'albero pericolante, pericoloso, che può cadere e ammazzare un bambino, però può anche essere semplicemente gli alberi che non volevi che fossero lì. Però un albero può anche essere un problema per l'integrità del canale. E quindi, secondo me, il criterio dovrebbe essere che va bene, se proprio devi puoi tagliare l'albero, però solo se è pericoloso o se compromette la stabilità del canale. Il canale ha ragione d'essere, nel senso, se no ti si allagano i campi e non puoi più... Certo, poi da una parte non ci sta tipo fare un canale di cemento. Assolutamente no. Quello però non l'ho trovato, cioè ho spulciato i progetti del comune e non l'ho trovato cosa di fare canali in cemento. No, dicevo per dire che ci sta la gestione, però una gestione appunto che utilizza le piante come argine. Esatto. Gli alberi come argini. Esatto, per mantenere l'argine e oltretutto non compromettere la funzione di questo fiume come corridoio ecologico, perché è importantissima la presenza di appunto questo corridoio verde che permette agli animali di muoversi lungo questo canale. Poi vabbè, magari a un estremo del canale c'è Milano, però perlomeno possono usarlo per allontanarsi da Milano, non so. Sì, certo. E comunque questi alberi, come molti hanno detto, hanno la funzione anche di riparo per molte specie di uccelli e potenzialmente la zona è ottima per la avifauna locale. Quindi assolutamente non andrebbe stravolta. Poi anche la questione delle chiuse, un'altra parte del progetto consiste nel ricostruire il sistema di chiuse, che sono come delle mini dighe per queste rogge, questi canali, che permettono di controllare il livello dell'acqua nei vari campi. Quelle, nel senso, sono importantissime e permettono l'esistenza delle marcite, e quindi quelle secondo me ci stanno. Poi se decidono di sostituirle con delle cose che funzionano a gasolio, bruttissime così, non sarei contento affatto. Se semplicemente restaurassero. Sì, certo. Ripristinassero. Cioè, diciamo, chiuse che esistevano prima e che esistono tuttora in altre zone rurali dove ci sono, esatto, i canalini. Esatto, mantenere il flavor della zona rurale. Sì. Le luci assolutamente no, perché non so se ci siano le lucciole al momento lì. Sì, ci sono. Se metti le lucciole non ci sono più. E quello sarebbe una grossa perdita. Ma anche un sacco di falene, che saranno brutte ma hanno il loro valore, e soprattutto importantissimi i pipistrelli, che saranno brutti anche loro, però un pipistrello mangia tipo 10.000 zanzare ogni notte. Cioè, mangiano un numero di zanzare che non ha senso. E se tu metti le luci, i pipistrelli se ne vanno. E quindi, serie di conseguenze negative. Esatto. Una cosa che sta venendo un po' sperimentata in altri paesi sono luci rosse, perché per qualche ragione gli animali notturni sono ciechi alla luce rossa. Ok, quindi, però voglio dire, cioè, ci sta anche non metterle, basta. Esatto, ci sta, cioè, non ci sono state tutto sto tempo. Nel senso, non so quanti omicidi avvengano al Parco Ticinello grazie all'assenza di luci, però insomma, non, sì, mi sembra sia una cosa imprescindibile. No, direi di no. Poi fare i sentieri di cemento, direi di no, perché il cemento è una merda, richiede un sacco di CO2 per essere prodotto e per farlo devi distruggere il suolo che c'era, che, come abbiamo già detto, il suolo è una cosa preziosa. Piuttosto si può mettere la ghiaietta, Poi nel progetto c'è anche di aggiungere un ponte carrabile e quindi aprire la strada ai carri, alle automobili, ai mezzi motorizzati, che secondo me non ci sta perché causano un disturbo non indifferente alla natura, e appunto se ci possono passare le macchine poi siamo a posto. Sì, cioè diciamo che il progetto di riforestare Riforestami è sicuramente con delle ottime potenzialità. Esatto. Però dall'altra parte avviene intanto con delle modalità discutibili. Una di queste è la concessione alle aziende che partecipano economicamente di avere una compensazione di emissioni di CO2. Cioè vuol dire si calcola ogni albero quanta CO2 in camera all'anno e ogni azienda ha un limite massimo di emissioni che può produrre all'anno. Compensare le emissioni vuol dire io pianto alberi abbassando la quantità di CO2 che io emetto. Quindi sostanzialmente vuol dire che queste aziende possono inquinare di più tanto quanto gli alberi che hanno piantato incamerano CO2. Esatto. E questo è un controsenso. Come, scusami? È un controsenso. È un controsenso. E questa è la prima cosa negativa. La seconda è che è cambiato in corso d'opera e quindi esatto. 3 milioni di alberi solo a Milano sono diventate 3 milioni di piante generiche in tutta la provincia. E la terza cosa è che avviene in parallelo a tutta una serie di progetti o tentativi che riducono la quantità di piante presenti a Milano, tipo Piazza d'Armi, di cui abbiamo parlato prima, o questi progetti discutibili al Ticinello, o tutta una serie di altri. Nel Parco Nord che si vogliono tagliare centinaia di piante per fare questo bacino di emergenza del Seveso, insomma tutta una serie di cose che sono esattamente contrarie al principio del progetto Riforestami. Esatto, e quindi uno dice appunto, cioè è solo da nel senso il potenziale era così buono però è stato realizzato in un modo così scadente e ovviamente guidato da altri interessi. Sì. Che sinceramente mi viene da mandarli a fanculo. Sì. Ed è quello che diciamo la popolazione di Stadera Chiesa Rossa sta iniziando a fare per quanto riguarda il Ticinello, ma comunque anche i comitati di zona di Baggio, di Piazza d'Armi, la stessa cosa, al Parco Nord pure ci sono state contestazioni, insomma non tutti si fanno abbindolare. Esatto, cioè nel senso va bene tutto, va bene la sostenibilità, l'ecologia, ma non quando è da un lato una scusa per poter inquinare di più, quando pianti alberi, e quindi mi sì, abbono esatto. Gli alberi li pianti per sistemare danni che sono stati fatti nel passato, primo, e secondo non ci sta la sostenibilità quando è solo uno specchietto per le allodole o una campagna elettorale o esatto. Solo per sembrare green, perché esatto. Quando poi c'è da fare progetti che siano più attenti, cioè quando poi c'è da stare attenti per davvero alla natura, la regione e il comune di Milano sono assolutamente criticabilissimi per il loro approccio. Sì, e sei stato in zone di estremo valore naturalistico stanno andando completamente distrutte per disattenzione, disinteresse, se non interesse speculativo, appunto a diminuire il valore di biodiversità di certe zone. No, come al solito Dave sei iper diplomatico proprio, cioè sono assolutamente discutibili che invece sono, si può dire anche sono delle merdate incredibili. Sono delle merdate criminali che andrebbero punite con cose assolutamente antidemocratiche e che non sarebbero accettate in un paese moderno, però insomma non puoi mica ammazzare i consiglieri regionali. No, però diciamo ti fa salire quel crimine, quella brigata rossa che è in tutti noi, è in ognuno di noi. Esatto. Oh, Dave, io ti ringrazio come ogni volta che facciamo una puntata, perché minchia, dai una visione super, come dire, scientifica e iperprecisa da un punto di vista appunto di gestione, in questo caso proprio di gestione forestale, però insomma che tutti i tuoi anni di studi si fanno sentire. E, grazie e di niente. Darmi uno sbocco, grazie di darmi la parola, alla fine a volte mi sento anche un po' arrogante a parlare per tipo 2 ore, asciugare tutti. Beh, in realtà vedendo anche dai podcast che già ci sono, un bel po' di gente se li ascolta comunque. Sì. E noi ringraziamo tutti e tutte loro. Vero. Di questa cosa. E comunque Radio ZM esiste proprio per dar voce a persone che ne sanno e che hanno voglia di raccontare, di fare musica, di tenere compagnia a chi ascolta, e quindi bomba che insomma hai questa possibilità su Radio ZM. Poi bomba tu che lo fai senza altri fini se non di fare buona e corretta informazione e propaganda contro chi non mi piace. Esatto. Esatto. Quindi Dave, io ti direi mandiamo insieme sia la tua seconda canzone che la sigla finale. Ormai yes. È un appuntamento fisso e ci diamo appuntamento a tra un mese, l'ultimo mercoledì di marzo a questo punto, quando faremo la prossima puntata. Un po' di suspense che non diciamo su che cosa sarà, ma in realtà è dovuto al fatto che non ci abbiamo ancora pensato, ma sarà sempre un approfondimento tipo questi. Esatto. Qual è il pezzo che proponi? La canzone che mandiamo è della banda che si chiama Banda Ionica, che è un gruppo siciliano che fa musica tradizionale siciliana, e questa canzone si chiama Lorenzo in Sicilia, dell'album Matrimia. Mamma mia, veramente che ricercatezza delle tracce. Quella dopo è Greta Thunberg di Marrakesh, che è la nostra sigla finale, e niente, poi la musica va avanti tutta la notte su Radio ZM. Quindi rimanete sintonizzati, sintonizzate. E io... Ciao. Thank you.